tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Inizio di settimana, oggi e domani, all'insegna dell'instabilità, e questo per l'afflusso sull'Italia di correnti fresche che favoriranno la formazione di numerosi temporali, specie al centro-sud. Mercoledì e giovedì invece situazione in miglioramento, con meno nuvole e meno temporali grazie al parziale rialzo della pressione. Poi nell'ultima parte della settimana scampoli d'estate, con prevalenza di tempo soleggiato e temperature pomeridiane in generale intorno a 28-30 gradi, e questo grazie all'alta pressione che occuperà gran parte della penisola. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. E con questo è tutto.